Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. Continua la notte di Capodanno su Resto Radio Convento e anche all'interno del locale, ovviamente. Allora, un bel gruppone di ragazzi che è venuto a trovarci qui all'interno della nostra radio. Allora, benvenuti a tutti, da dove venite? Diteci un po'. Casal Pusterlengo. Tu, Milano, Casal Pusterlengo. Castelnuovo, vabbè. Esatto, tutti in zona. Interland, che è un sostantivo che si usa tanto nelle zone milanesi. E siete un gruppo di amici, colleghi, amici, molto bene, amici. Amici. Di scuola? Dai tempi della scuola? Oh. No. Misti. Misti. Amici di birra. Da serata nei pub. La serata nei pub. Bene, bene. Prima volta che passate da noi o siete già rodati? Seconda volta. Seconda, ok, bene, bene, bene. Vai, volete fare degli auguri veloci, un passaggio tutti? Saluta a Casale, vai, auguri a Casale. Tanti auguri di buon anno a tutta Casa Pusterlengo e alla mia ragazza. Oh. Bravo, se no Yemena, esatto, se no Yemena. Basta, bene. Ho visto che ha avuto dei problemi di contatti. Ho visto molte difficoltà. Vai, prossimo. O prossima. Volevo salutare Pioltello. Un saluto a Pioltello, tanti auguri a Pioltello. Giusto. Soprattutto al quartiere Satellite, grazie. Giusto. Viva le frazioni, viva i paesini. Vai, poi. Vai, boss. Passa. Non è passaparola. Saluta la Calabria. Salutiamo la Calabria. Perché noi abbiamo origini dalla Calabria. No, ok. C'è anche una parte. C'è anche una piccola parte, ok, di quello. Quindi salutiamo. Cutro, va bene. Quartiere il Casale. Ormai abbiamo. Esatto. Tutti li abbiamo salutati. Ti sei appoggiato sull'interruttore. Bravo, adesso li hai anche accesi. Ormai ci sei. È un uomo contatto, praticamente. Bravo, li spenti. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono. Ok. Vai, volete anche fare gli auguri, già che ci siete. Sì. Buon anno. Tantissimi auguri a tutti. E di buon anno. Che sia un buon 2020. Anche ai parenti, ai nonni. E che porti tanti soldi questo 2020. Non ci spera, ci spera. Ogni anno è sempre così, non arriva. Ma siamo sempre in crisi. Davvero milanese, prima di tutto il denaro, il resto è secondario. Prima di tutto fatturare. Prima di tutto fatturare, poi il resto è secondario, è importante. E speriamo anche di passare gli esami. Cioè, vedi, giustamente. Le sue preoccupazioni. Quanti te ne mancano? No, non lo sai tu. No, perché siamo in. Ah, la stessa. Rispondo io per loro, un annetto, dai. Un annetto. Forse cinque, dai. Sì, ma la bionda si sposa con te, non è che si sposano. Lui ha festeggiato tantissimo per questa notizia, ma non ha considerato che l'amorosa è la sua, quindi adesso sta scappando e. Devo prendere provvedimenti. Esatto. No, ha chiesto che si torni indietro nel tempo per riesprimere un'altra emozione di fronte alla notizia. Esatto, che ha sbagliato emozione nel momento in cui ha capito. Esatto. Quindi ci sposiamo. Quando? Ecco, vedi, adesso è già più sincero, li brillano già più gli occhi. Ma non perché non vuole sposarti, perché deve spendere soldi per il matrimonio. Esatto, e quindi lui non vuole far uscire nulla, ma solo incassare. Lui vuole solo. Esatto, vuole solo incassare, che giustamente è per quello che ha chiesto prima che il 2020 portasse denaro. Ci sono dei progetti da in cantiere. Da concretizzare. Ok, ragazzi, allora grazie mille. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No, a posto così, ci siamo, ci siamo, a posto così. Allora, auguri anche a voi e grazie di essere venuti a trovarci di nuovo. A presto, ragazzi, ciao! Ciao! Champagne!